qui da Campidoglio, perché qui la lotta per la casa continua. E in poche parole adesso siamo davanti al Campidoglio con le famiglie dell'occupazione di Carlo Felice, 53 famiglie che da un mese e mezzo hanno subito il distacco dell'energia elettrica e che la CEA non vuole sentire ragioni. Noi vogliamo pagare la corrente elettrica, non la vogliamo nemmeno gratis, anche se sarebbe più che giusto rivendicare un servizio di prima necessità in modo gratuito. E nessuno ci ascolta e siamo qua sotto. Invece per quanto riguarda l'altra, che poi non è una situazione come immaginerete distaccata da questa vertenza, stiamo cercando di organizzare tutta una serie di iniziative da fare all'Astra oppure in altre strutture, ma che diano un senso al signor De Laurentiis, che noi da lì senza proposte alternative reali non ce ne andiamo. Ed è per questo che ci stiamo mobilitando tutti i giorni. Abbiamo così scherzosamente formato un comitato di crisi che sta vagliando tutte le ipotesi necessarie a far sì che questa lotta venga vinta, perché noi crediamo che il sogno di costruire uno spazio pubblico attraverso il recupero di uno spazio privato non si può interrompere con la forza pubblica. E quindi ci stiamo preparando anche a resistere allo sgombero che dicono probabile. Questa è la situazione al momento. Domani abbiamo un altro incontro con il sindaco e cercheremo di far scoprire le carte. Tutto qua.